Ciao Marco, come va? Un po' giù sono. Gloria, un po' giù. Già l'ho visto. L'ho visto su Facebook. Mi dispiace parecchio, mi dispiace. La verità. Ma quanto avete fatto? Marco, la matrimonio, Marco, un mese, quanto è? 6 mesi? No, un anno, più che altro, no. Anche un anno di matrimonio. Figura. Eppure era tranquilla, ero vista felice, eccetera, eccetera. Tutto in un momento è successo, tutto in un momento. Cosa vuoi che ti dica? Con quelle cose brutte della vita sono. Anche io questa volta, la mia ragazza a Nazio è lì, l'altra volta, ho fatto una cura e ce l'ho portata che c'aveva 250 di battito, cioè di pressione e di più di 140 di battito, per una cosa che ha fatto la... lì, da lo scemo, ho capito. Che non lo vedo neanche più, ci ho provato l'urgenza, no? Non ci ho fatto capire nulla, eccetera, eccetera, meno male non sono riuscito a recuperarla, perché me ne sono accorto in tempo, come ha fatto in pratica si è coricata e... capito, si sente male, immediatamente ho chiamato l'ambulanza e ci hanno portato all'ospedale, poi va bene, adesso le 3-4 del mattino me l'hanno portato da nuovo a casa, grazie a Dio. Tutto in un attimo, non c'è stato niente da fare perché avevo un problema al cuore, non sapeva neanche nessuno, l'abbiamo saputo quando ha fatto l'autopsia, infatti ce l'hanno dato dopo 4 giorni, il magistrato ha chiesto l'autopsia e il risultato è che era una specie di malformazione al cuore che non si poteva vedere così, si facevano degli esami molto molto specifici, ci volevano per sapere questa cosa qua, e purtroppo se n'è andata. Teniamoci questo dolore, io mi tengo mio figlio, sta arrivando la zia tra un po', cosa devo fare? Avevamo una famiglia felice e adesso vabbè. Sì, vabbè, non è un problema per quello, tuo figlio si è penato da due persone, quindi è come se ci avessi lì vicino, capito? Ce la vai sempre a fianco, non è che si scorda di te, anche se da un'altra parte, stai tranquillo che vigila, capito? Non preoccuparti per come ti vuoi, ti conto che stai bene tu, hai capito? Devi ricominciare da capo piano piano e come si fa tutte le cose. Io ho rischiato parecchio, ho rischiato per Simone, cioè Simone ha rischiato e ho rischiato anche di perderla e poi pure a casa, non lo so, forse qualche santo, qualcuno mi ha avvisato e quindi sono riuscito a salvarla, se no è già in coma. E da lì ho ricominciato e piano piano sto sopportando ciò che i residui che gli ho lasciato, le sigarette, capito? Quindi il discorso è quello lì, so cosa vuol dire, non, cioè vabbè, ancora viva, ma mi alle vita com'è, quindi a un certo punto. Io sono, male anch'io, per diciamo 2 mesi male, io non so come avevo fatto a salvarmi, quando abitavo al centro storico via San Donato mi è sceso un tubo di 2 metri sopra in testa, mi ha preso di striscio in testa, ci ho dato tanto soccorso, ma domani non sono svenuto, mi hanno cucito dopo 8 ore, che figurati. Quando dopo che mi ha cucito, lui mi aveva detto che non c'è nessun bisogno di cucirla, mi aveva detto. Dopo mi ha cucito, mi aveva fatto il foglio che lì dovevo stare 24 ore sveglia, ha detto, oh, andate a fanculo, gli ho detto, a quanto soccorso, voi e cosa, ho detto, io stavolta dormo, sei crepo crepo, va a fanculo e basta. E invece sono rimasto vivo, grazie a Dio. Sai come la sanità sarda, no? Se ne fregano di tutto, di tutti. Molto il Covid è altrettanto, ma guastato il Covid a me, tutta la parte sinistra, hai capito? Fatto la visita da neurologo, io ho la parte sinistra, che in pratica nel cervello, che ha problemi, più il braccio, e c'è un'infiammazione, ogni tanto mi si crea un'infiammazione alle gengive, fatta dal Covid. Che cazzo. Che cosa vuoi? Avuto pure i pinati, cioè, allora, per carità, guarda, speriamo che questi ultimi anni non succeda più niente, perché io sono anche troppo stanco, so, non c'è, ti fatichi si grossi, non ne posso più. La cosa che mi ha crepato di più, mi ha fatto più male di tutti, per vedere mia moglie che se ne andava davanti ai miei occhi. Quella è una cosa che per me è stata terribile, terribile proprio. Ci credo, ma io non ci credo. Ho visto anch'io su questa specie di cosa. Ma ragazza, se no, guarda, se io l'ho, è stata una cosa fortuita, mi aveva chiamato Giampiero, giù, scendi giù a casa che mi devi lavare, eccetera, eccetera. Gli ho detto, aspetta, gli ho detto, già ci vediamo molto dopo, gli ho detto. Tutto a un tratto, Simona si è coricata e dopodiché si è fatta la pipì addosso. Lì, come si chiama, dopo 5 minuti, quando toccata, era già mezzo fredda. L'ho presa in tempo perché gli è venuta la giugulare, capito? Gli si è bloccata una trombosi e quindi l'hanno portata immediatamente e l'ho recuperata di culo. È stata in coma per 15 giorni, figurati, stavo per perderla. E la notte, guarda, la verità, questo te lo può dire anche Giovanna, che è stata testimone anche lei. E diceva, dai, io usciamo, che sta tranquillo, eccetera, eccetera, ci beviamo una cosa. Mi sono bevuto la birra lì al circolo, eccetera, eccetera. Dopodiché, quando sono entrato a casa, non so cosa mi è venuto in testa, accanto a poco cenato, mi sono bevuto un po' di sfumante, cazzo, non è mattina. Sono caduto, mi ha trovato mia nipote in terra, steso, con la testa sfasciata, a sanguinone, mi ha recuperato lei e mi ha portato a pronto soccorso, mi ha fatto portare a pronto soccorso, figurati, mi sono svegliato io. Figurati come l'ho presa io, una cosa del genere. So cosa vuol dire. Che cazzo, già lo so già. Sì. Aspetta un attimo che... No, aspetta un attimo. Aspetta, oh Antonio, dai, ti devo lasciare con un attimino. C'è mia cognata, ok? Sì, fai, già sono qua la scorta, non ti preoccupare. Comunque reagisci, non fare come ho fatto io che in pratica sono finito all'ospedale per niente, in pratica. Hai capito, però... Due bicchieri di cosa, di sfumante, dopo aver cenato. Quindi reagisci e basta, non pensare all'altro. Pensa al tuo figlio, crescilo, è come se fosse tua moglie, tanto uguale, tanto è vostro figlio, quindi a un certo punto crescilo e fregatelo, reagisci parecchio.